Letture di Radio 24. C'è chi il Natale lo ama, tutti i bambini si presume. C'è chi lo odia, come Scrooge, o come chi nel giorno più bello dell'anno è costretto a lavorare. E c'è anche chi vorrebbe che il Natale non finisse mai, come immagina Heinrich Böll in un racconto del 1951. Tutto parte dalla zia Milla e dalla sua passione per addobbare l'albero di Natale. La principale attrazione dell'albero di Natale della zia Milla erano dei nanetti di vetro che tenevano nelle braccia alzate un martelletto di sughero. Ai loro piedi erano appese incudini a forma di campana. Alle suole dei nanetti erano fissate delle candele. Raggiunto un certo grado di calore, cominciava a muoversi un meccanismo nascosto, una frenesia nervosa si comunicava alle braccia dei nanetti, che battevano come matti coi loro martelli di sughero sulle incudini a forma di campana e provocavano, una dozzina in tutto, un fine tintinnio concertante, come una musica di elfi. In cima all'abete era attaccato un angelo vestito d'argento, dalle guance rosse, che a determinati intervalli muoveva le labbra e sussurrava «Pace! Pace!». Il segreto meccanico di quest'angelo, custodito gelosamente, mi si è rivelato solo più tardi, sebbene allora avessi occasione di ammirarlo quasi ogni settimana. Ma dall'abete di mia zia pendevano un'infinità di altre cose, caramelle di zucchero, biscottini, figurine di marzapane, zucchero filato e, da non dimenticare, i fili di stagnola. Attaccare tutte queste cosine, questi ornamenti, mi ricordo ancora, richiedeva una notevole fatica. Tutti dovevano partecipare e nessuno della famiglia, la sera di Natale, aveva appetito, per la tensione nervosa e lo stato d'animo, per così dire, era terribile. Durante la guerra l'albero viene distrutto dalle bombe e per un po' di tempo la zia Milla è costretta a mettere da parte la sua passione. Ma al termine del conflitto si ricomincia con i preparativi del Natale, ma con una differenza. Al termine delle feste, quando arriva il momento di smontare l'albero, la zia comincia ad urlare a squarciagola, rifiuta di mangiare e nemmeno un esorcismo tentato dal parroco riesce a guarirla. C'è solo un rimedio: acquistare un nuovo abete e inscenare ogni sera una festa di Natale. A casa di mio zio, le feste serali hanno assunto una rigidità quasi professionale. Ci si raduna sotto l'albero o attorno all'albero. Mia zia entra, si accendono le candele, i nanetti cominciano a battere sulle incudini e l'angelo sussurra: «Pace, pace!». Poi si cantano alcune canzoni, si mangiucchiano dolci, si chiacchiera un po' e ci si ritira sbadigliando con l'augurio «Buone feste!». E la gioventù si dà ai divertimenti che offre la stagione. Mentre il mio buon zio Franz si ritira con la zia Milla. Resta nella stanza il fumo delle candele e il profumo delicato dei rami d'abete riscaldati e l'aroma delle spezie. I nani un po' fosforescenti restano rigidi nell'oscurità, con le braccia alzate minacciosamente, e l'angelo mostra una tunica argentea, pure fosforescente. Resta forse da rilevare che la gioia della vera festa di Natale ha perduto molto del suo fascino, per tutta la parentela. Se vogliamo, possiamo ammirare da nostro zio ogni giorno un classico albero di Natale, e succede spesso che mentre d'estate sediamo sulla veranda e beviamo dopo il travaglio e il peso della giornata, la dolce bulle all'arancio dello zio ci arrivi da dentro il suono soave delle campane di vetro e si possa vedere nella mezza oscurità i nanetti martellare come piccoli veloci diavoletti, mentre l'angelo sussurra «Pace, pace!». E ci fa sempre una strana impressione sentir lo zio, in piena estate, gridare ai figli all'improvviso «Accendete l'albero, per favore! La mamma viene subito!». Poi entra, generalmente puntuale, il prelato, un soave vecchio signore cui ci siamo tutti affezionati perché recita la sua parte meravigliosamente, seppure si è mai accorto che deve recitare una parte, e quale. Ma tanto vale. La recita, coi capelli bianchi, sorridente, e l'orlo violetto sotto il collare, dà alla sua figura l'ultimo tocco di distinzione. È un'esperienza straordinaria sentire nelle tiepide notti d'estate il grido concitato Lo smoccolatoio! Dov'è lo smoccolatoio? È già successo che durante un violento temporale i nanetti, anche senza l'influenza del calore, cominciassero a sollevare le braccia e a oscillare come matti e a dare un concerto fuori programma, fatto che si è cercato di spiegare con la prosaica e asciutta parola elettricità. Avete ascoltato alcuni passaggi del racconto di Heinrich Böll, Tutti i giorni Natale, dalla raccolta Racconti umoristici e satirici. Bompiani, 166 pagine, 9 euro. Digital Radio Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo. Con le trasmissioni in digitale, la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. Letture di Radio 24. La pratica della contraffazione è antichissima. Già nel IV secolo avanti Cristo, i due filosofi Eraclide e Dionisio ebbero una disputa sulla paternità di una tragedia. Scrive Giuseppe Clericetti in un articolo dove prende in esame alcuni dei più clamorosi esempi di plagi e falsi nella musica classica. Un caso emblematico per il Settecento musicale è quello di Giovanni Battista Pergolesi. A causa della rapida fama delle sue composizioni e della malattia che lo colse giovanissimo e lo portò a soli 26 anni alla morte, creando un alone di leggenda, la domanda di sue composizioni superò di gran lunga l'offerta. Troviamo la sua firma apposta a decine di Miserere, Requiem e Dies Irae. Oggi sappiamo che su più di 300 composizioni attribuite a Pergolesi, solamente una trentina sono sicuramente sue. Sembra che l'aria Se tu m'ami, pubblicata da Alessandro Parisotti nel 1890 nella celebre antologia di Arie Antiche, non sia di Pergolesi, ma di Alessandro Parisotti stesso. Nel tranello cadde Igor Stravinsky in Pulcinella. Passiamo ora alla contraffazione. Il discrimine sta nell'intenzione di ingannare. Nel 1778 Mozart scrisse un concerto per violino per la figlia di Luigi XV, Adelaide, considerato perduto, poi rinvenuto nel 1933 e dotato di un numero, 294A, nel catalogo Köchel. Qualche anno dopo la pubblicazione, il violinista Marius Casadedus rivela la sua paternità. Il concerto Adelaide figura ancora oggi come composizione di Mozart nel catalogo di varie case discografiche. Il concerto in Do maggiore di Vivaldi, catalogo Riom An, 62, fu scritto nel 1906 da Fritz Kreisler. Nel 1935 il violinista confesserà di aver preferito comporre ex novo un concerto italiano del Settecento, anziché affrontare ore di ricerche in biblioteca per trascrivere un concerto di Vivaldi. Sul frontespizio della raccolta Il Pastor Fido, opera 13 del 1737, si legge che la raccolta è di Vivaldi. Il caso è più interessante perché il vero autore, Nicolas de Chédeville, abile uomo d'affari, già trascrittore per Musette e Ghironda delle quattro stagioni di Vivaldi, è coevo all'autore plagiato. Arriviamo alla contraffazione musicale più formidabile degli ultimi anni. Alla fine del 1993 si annuncia la scoperta musicale del secolo, il ritrovamento di 6 sonate per pianoforte composte da Joseph Haydn tra il 1766 e il 69, rintracciate nella casa di un'anonima signora tedesca. Gli incipit coincidono con le battute iniziali annotate da Haydn. Howard Robbins Landon, fondatore della Haydn Society, conferma la paternità di Haydn. Il pianista viennese Paul Badura Skoda contatta immediatamente l'editore Henle per progettarne la pubblicazione e la casa discografica Cox Schwann per assicurarsi l'esclusiva della registrazione su un pianoforte storico. Intanto l'Università di Harvard organizza per il febbraio del 1994 un convegno, ma l'autore delle sonate, tranne naturalmente le prime battute, è Winfried Michel, flautista tedesco, che nel 1995 pubblicherà le sonate per l'editore Amadeus, come composizioni di Haydn completate, dicitura corretta, sebbene il completamento interessi il 99% del materiale. È un equivoco associato a una buona dose di ingenuità a consentire ancora oggi di parlare del celebre adagio come composizione di Tommaso Albinoni. Nel 1947 il musicologo Remo Giazzotto scrive un adagio in sol minore per archi e organo su due spunti tematici e su un basso numerato di Tommaso Albinoni, pubblicato con questo titolo da Ricordi nel 1958. Giazzotto dichiara di aver rinvenuto nel 1945 nella biblioteca di Dresda un frammento costituito dalle prime sei misure di una sonata da chiesa di Albinoni. Il frammento non è mai stato rintracciato. Ricordiamo le considerazioni alla base dell'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle. Tutto è già stato detto, tutto già scritto. Non ci rimane che rimasticare il materiale per produrne altro attraverso tecniche combinatorie. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Giuseppe Clericetti «Il plagio è necessario, il progresso lo esige», dal numero di dicembre-gennaio della rivista Musica. Li chiamano multitasking. Sono quelli che parlano, scrivono sul computer, rispondono a mail e cellulare, tutto nello stesso tempo. Una volta chi non guardava in faccia il proprio interlocutore rischiava di essere definito un maleducato. Oggi è di moda, scrive Nanni Del Becchi sul Fatto Quotidiano. Se qualcuno a cui state parlando da 5 minuti tace e non ha nemmeno alzato la testa per guardarvi in faccia, sappiate che non è maleducato lui. Siete obsoleti voi. Non avete capito di avere di fronte un vero multitasking. Multi de che? Avrebbe chiesto un tempo Alberto Sordi. Multitasking, risponde in coro l'esercito di chi proclama la bellezza del saper fare più cose nello stesso tempo. E che più cose si fanno, meglio si fanno. Dunque, non solo il vero multitasking vi stava ascoltando attentamente, è che nel frattempo ha controllato la posta elettronica, ha ritwittato una battuta spiritosa di Renzi, ha chiesto l'amicizia a Jovanotti e stava mandando un messaggio su WhatsApp a suo cugino che vive in Australia per sapere che tempo fa a Melbourne. Multitasking. Ennesima riprova della superpotenza dell'inglesorum. Una volta, quando ancora si parlava l'italiano, quel tipo che non vi guarda in faccia avrebbe rischiato di essere definito un maleducato, ma anche uno stacanovista, schiavo dell'efficienza. Adesso è il non plus ultra delle capacità umane. Ma com'è che ci siamo ridotti così? Hanno cominciato le donne a dichiararsi non tanto rompitasking, come gli uomini hanno sempre sospettato, bensì multitasking e a vantarsi che la cosa era provata. Il vanto consiste nella storica capacità di gestire la casa, seguire i figli, essere in carriera, partecipare al torneo di burraco e seguire il corso di cucina vietnamita in giornate farcite quanto un doppio Big Mac, ma senza che nessuna di queste attività ne risenta. Stabilito il primato, invece di dividere in modo più equo il Big Mac, con i maschi oppressori li hanno plagiati a fare altrettanto, incluso il corso di cucina vietnamita. Poi è arrivata la dittatura del web, il paradiso del multitasking, dove fare una cosa per volta, magari concentrandosi con calma, è sostanzialmente inibito a livello ormonale. Dopo aver studiato i meccanismi di questa attività frenetica, alcuni neuroscienziati dell'MIT hanno accertato una dipendenza da dopamina che induce il cervello a cercare stimoli esterni. Ma anche senza referti medici, basta osservare come il vero multitasking non possa vivere senza digitare compulsivamente il suo smartphone, carico di app come l'uniforme del feldmaresciallo Josef Radetzky era carica di medaglie. Ecco perché pretendere da costui un'attenzione esclusiva sfiora l'offesa. Non è maleducato lui, sei inopportuno tu. Oltretutto, non ne vale la pena. Parlando a quattro occhi con il vero multitasking, si stabilisce lo stesso feeling che parlando a un boiler, ma almeno il boiler ha tre velocità. Per rompere il ghiaccio, l'unica è alzarsi e mandargli una mail dalla stanza accanto. Allora vi risponderà all'istante. E se gli siete simpatici, vi metterà anche un like. Fermate il multitasking. Voglio scendere. Avete Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Nanni Del Becchi «Fermate questo multitasking, voglio scendere dalla frenesia» da Il Fatto Quotidiano del 14 dicembre. In Giappone sono 1 milione, in Italia sarebbero 20 o 30 mila. Sono gli hikikomori, i giovani che vivono in totale isolamento, chiusi in camera davanti a un computer. Ma secondo uno psicoterapeuta, la colpa non sarebbe soltanto della rete. Un mondo fatto di qualche monitor, una tastiera, un joystick e una buona connessione. Funziona così la vita degli hikikomori, i reclusi, i separati, gli invisibili. Giovani che salutano il mondo, si chiudono in camera e lì rimangono per mesi e anni, come fossero asceti tecnologici, eremiti che invece della cella di clausura hanno scelto la rete. Il fenomeno degli adolescenti autoreclusi è noto dalla metà degli anni Ottanta in Giappone, dove si stima che i casi siano 1 milione. Di recente è arrivato anche in Europa, in Francia, in Svizzera e in Italia, tanto che Antonio Piotti, psicoterapeuta del centro milanese Il Minotauro, da sempre impegnato ad affrontare il disagio adolescenziale, si è occupato del fenomeno e ha pubblicato con Roberta Spiniello e Davide Comazzi Il corpo in una stanza, prima indagine organica sui nostri hikikomori. Da noi i primi casi si sono presentati nel 2007, spiega. In pochi anni però il fenomeno ha continuato a crescere, tanto che oggi non sappiamo con precisione quanti siano i giovani italiani che si sono ritirati. Stime fatte dagli psicologi in base alle loro esperienze ci hanno indotti a pensare che siano tra i 20 e i 30 mila. Il consultorio gratuito del Minotauro di Milano da solo accoglie circa 50 casi l'anno, ma il fenomeno potrebbe essere anche più ampio. Basti pensare che in Francia sono quasi 80 mila. I sintomi della sindrome hikikomori, letteralmente stare in disparte, isolarsi dalle parole giapponesi iku, tirare, e komoru, ritirarsi, tendono a presentarsi tra i 13 e i 14 anni e sono simili a quelli della depressione, anche se la loro origine psichica è diversa. Negli hikikomori, dice Piotti, il sentimento più forte è la vergogna. Si vive come un fallimento la distanza tra le aspettative che si avevano per sé e la realtà. Quanto più grande è la distanza tra ciò che si era idealizzato e fantasticato e la vita vera, tanto maggiore è la vergogna che si prova. Così, nell'incapacità di reggere il confronto tra l'idea che si aveva di sé e la realtà, si dice addio ai ritmi circadiani, ci si barrica in camera e lì si passano giornate e notti sui social network o sui giochi di ruolo, con cibo spazzatura, da mangiare un po' quando capita, rinunciando ai pasti in famiglia e alla socialità. Quanto questo disagio, o almeno questi sintomi, siano figli dei nostri tempi iperconnessi, è difficile da dire. Ci sono due teorie, dice Piotti. Secondo la prima, gli hikikomori nascono per colpa della rete, che li attira a sé e allontana dal mondo vero. La seconda, invece, che mi convince di più, sostiene che i ragazzi stanno male a prescindere e allora si rifugiano nella rete. Non bisogna demonizzare il web, che in questi casi rimane l'unico modo per fare esperienze, anche se virtuali. Ed è anche quasi l'unica strada dalla quale possono arrivare l'aiuto di un terapeuta e la salvezza. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Luciana Grosso, Chi sono gli hikikomori e perché ormai crescono anche in Italia, dal venerdì di Repubblica del 4 dicembre.